Contente e piena, se non mando il suo bene.

sì, la madre a me poc'anzi ha detto, a cui prima non altra del figlio apparve il glorioso aspetto. Oh, come lieto avrà quel figlio tolto! Parve ch'il suo bel volto di stille lacrimose umidi ancora del sol divino all'improvviso raggio fosse traviso un'altra aurora. Poi la gioia veloce corse dal senno al labbro in questa voce. Thank you. Thank you.